Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Il mio amico è andato altrove. Fosse andato anch'io altrove. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova immigrazione. Quanti vostri amici sono andati altrove? La domanda nasce ascoltando questo curioso brano di Valerio Millefoglie, Il mio amico altrove. Fate una rapida conta. Quanti ne conoscete all'estero? Parenti, fratelli, cugini, amici? Quanto è presente la voglia di fuga oggi dal bel paese? Mai come in queste settimane sentiamo parlare del rischio perdita di talenti. Abbiamo a questo punto due scelte: arrenderci al declino o cambiare marcia, anche e soprattutto a livello di mentalità. Non basta modificare le leggi, per esempio, sul lavoro, occorre soprattutto cominciare a implementare merito e trasparenza per davvero. E può servire prendere esempio dagli altri paesi? Beh, sicuramente. Noi oggi ci spostiamo in Austria. Qui in Austria i migliori neolaureati hanno l'imbarazzo della scelta. La posizione di un neolaureato in Italia è quasi umiliante, spesso ci si sente come con il cappello in mano. Danilo Mercurio, 36 anni, è un senior analyst per Erste Sparinvest a Vienna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. In apertura un piccolo riassunto del dibattito degli ultimi giorni su giovani, estero e lavoro. L'Italia dispone soprattutto di un grande capitale umano che non ha abbastanza valorizzato, e lo sforzo del nostro governo è quello di valorizzare di più il capitale umano. Sono sicuro che non ci sarà più l'insoddisfazione dei migliori giovani italiani nei confronti delle condizioni dell'Italia e la voglia di andarsene. Premier Mario Monti, intervenendo al TG5, ha così affrontato il tema della fuga dei talenti all'estero. Sempre per Monti, i giovani si devono abituare all'idea di non avere più il posto fisso a vita, dovranno abituarsi a cambiare spesso luogo e tipo di lavoro, anche paese, un'affermazione che ha suscitato un ampio dibattito sui media. In un'intervista successiva, Monti ha precisato il valore proprio di un'esperienza all'estero. Se uno vuole equipaggiarsi per essere un protagonista a tutti i possibili livelli nel mercato del lavoro, della ricerca internazionale, suggerirei di fare tranquillamente la scuola, l'università in Italia, durante l'università cercare di fare periodi di stage sia aziendale sia in università estere, poi di fare un periodo di specializzazione all'estero, insomma di comporre un percorso a segmenti che siano multipli. In Italia resta basso il tasso di protezione contrattuale dei giovani nel settore privato legato all'articolo 18. Secondo Data Giovani, solo il 41% degli under 30 ne usufruisce, contro una media degli over 30 che sfiora il 60%. Per l'Istat, gli under 25 a tempo determinato sono il 47% degli occupati in quella fascia d'età. Tra gli over 35 solo l'8% si trova in questa condizione. Oltre il 70% dei nuovi ingressi nel mondo del lavoro è a tempo. E che l'Italia non sia un paese per giovani lo dimostrano i dati OCSE. La spesa pubblica per il welfare risulta in calo negli ultimi anni. Il bel paese è fanalino di coda in Europa nel sostegno dei disoccupati. In Italia nell'ultimo ventennio la spesa per le pensioni degli anziani è lievitata del 38%, quella per la disoccupazione ammonta a un misero 0,4% del PIL. E questo mese un'apposita task force antidisoccupazione della Commissione Europea effettuerà una prima visita in Italia. La missione avrà lo scopo di individuare i necessari elementi di un piano sull'occupazione giovanile, oltre a incrementare il sostegno alle PMI. Roma ha inviato a Bruxelles il piano d'azione di coesione per il Mezzogiorno, rivolto per metà a interventi per giovani e lavoro. Secondo lo European Vacancy Monitor, l'Italia ha avuto nel 2011 uno dei mercati dell'impiego meno attivi d'Europa, con un tasso di crescita di occupati superiore solo a Lettonia, Spagna, Polonia, Olanda e Grecia. La disoccupazione giovanile tocca in Italia il 27,4%, ma quella reale, che comprende sfiduciati e inattivi, fa salire il dato al 38,7%, lo afferma la CGA di Mestre. E nel 2011, a fronte di un modesto recupero generale del mercato del lavoro, si è registrato un ulteriore peggioramento per le giovani donne, con 45.000 occupati in meno nei primi tre trimestri, lo afferma l'Istat. Per le under 30 il tasso di occupazione risulta più basso, la quota di precari è più alta e la retribuzione inferiore a 900 euro. Resta molto forte la migrazione interna sud-nord. Secondo uno studio dell'IPE, 40.000 giovani lasciano il Mezzogiorno ogni anno per il centro-nord, poco più della metà per motivi di studio, gli altri sono laureati in cerca di impiego. I capi italiani, i peggiori, secondo un'indagine Kelly Services condotta in 30 paesi del mondo. Meno di un terzo dei dipendenti italiani vede riconosciuti i propri sforzi in azienda. Oltre 8 milioni di euro per 377 borse di studio, questo l'importo stanziato per il nono bando del Master dei Talenti Neolaureati, progetto della Fondazione CRT che permette a chi ha concluso il percorso negli Atenei Piemontesi e Valdostani di effettuare un periodo in azienda all'estero. Scadenza per le candidature 29 febbraio. Un motivo per restare o tornare. Qualche settimana fa vi avevamo raccontato la selezione pubblica avviata dal ministro dell'istruzione Francesco Profumo per consiglieri under 40 nei settori innovativi. Il ministero alla fine ne ha scelti 6, ben 3 di rientro dall'estero. Una di loro, Stefania Milan da Toronto, ha commentato: aspettavo da tempo che il mio paese mi chiamasse. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un economista alla società di consulenza Dar Aland Asa di Londra, scadenza per CV 18 febbraio, info su dargroup.com. Un account executive media relations al DCI Group, società con sede a Bruxelles, scadenza per CV 24 febbraio, info su dcigroup.com. E infine l'Institute for Research in Biomedicine di Barcellona mette in palio 10 borse di studio per programmi postdoc, scadenza per CV 6 marzo, info su postdoc.irbarcellona.org. La storia di questa settimana di giovani talenti ci riporta in Austria, paese dove la disoccupazione giovanile non sembra essere un problema, solo l'8,2%. Nome: Danilo. Cognome: Mercurio. Età: 36. Città di origine: Modena. Studi: economia e statistica. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 1996 prima volta, 2007 seconda volta. Per andare dove? Prima in Germania, poi in Austria. Perché? Prima studio, poi lavoro. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono un quant in un asset management. Dove? A Vienna. Tornerai? Penso di sì. Out of the Dark, l'indimenticato cantante austriaco Falco ci porta fuori dal buio di un paese che Danilo hai lasciato 4 anni e mezzo fa. Titolo scelto non a caso perché, come vedremo, tu in Italia avevi persino provato a rientrare e avevi trovato anche un ottimo lavoro. Ma da quale buio sei scappato? Cosa hai deciso di lasciarti alle spalle varcando nuovamente le Alpi? Ma io volevo una realtà che mi potesse fornire questo. A fronte di un maggiore impegno che ero disposto a dare, volevo dei risultati più concreti, delle possibilità più certe per il mio futuro. Volevo sapere che se valgo, se mi impegno, se ho dei talenti, che questi verranno ripagati. Iniziamo a raccontare la tua storia. Ci tieni a precisare di essere nato e cresciuto in una famiglia modesta di lavoratori. Lo sottolineo per lanciarti una piccola provocazione. Secondo te in Italia un bambino che nasce al di fuori delle corporazioni o delle caste professionali dovrà faticare il doppio rispetto a un coetaneo che nasce nella culla giusta? In tutti i paesi le famiglie aiutano i propri figli. Detto questo, in Italia c'è un sistema di welfare familiare, per questo solo le famiglie a mezzi possono aiutare. Fin da bambino hai l'occasione di viaggiare molto, aprendoti la mente e gli orizzonti. Al liceo studi 3 lingue, trascorri un anno di scambio in Belgio, dopodiché siamo nel 94, ti iscrivi alla facoltà di economia di Modena e Reggio Emilia. Perché? All'inizio pensavo ad una carriera di tipo universitario, da ricercatore come economista. E dopo soli 2 anni ti trasferisci all'università Humboldt di Berlino per un Erasmus? Allora mi fermo un attimo perché, come vedremo, questo segna anche la fine della tua esperienza universitaria in Italia, esperienza che però tu giudichi positiva. Perché? Tutti i miei studi sono stati ottimi in Italia, da quelli scolastici a quelli universitari, in particolare il primo biennio universitario, dove sono stati fatti corsi di base molto buoni e giustamente severi. Danilo, com'è stato l'impatto con Berlino, soprattutto col mondo dello studio tedesco? Shock culturale o d'opportunità? La Germania e il modello tedesco è molto più simile a quello italiano di quanto si pensi. In compenso ci sono delle cose migliori, anche maggiore severità, la bocciatura, gli esami e il fatto che l'università sia molto più vicina al mondo del lavoro. Questo è importante, Danilo, perché esiste il Praktikum in Germania. Cos'è? Come funziona? Il Praktikum è la parola tedesca che significa stage. È un'opportunità che viene offerta dalle aziende tedesche e austriache durante l'estate a moltissimi studenti. Questo è anche un'attività in cui le aziende vedono svolgersi il proprio ruolo sociale ed è l'opportunità per le aziende di cominciare a selezionare i migliori studenti. A Berlino avrai anche la svolta della vita. Un professore ti propone un lavoro part-time, da lì tu non ti sgancerai più. Prima ti laurei, poi arriva un dottorato in statistica ed econometria. Domanda a bruciapelo: in Italia un'opportunità del genere ti sarebbe mai capitata senza concorsi, lungaggini o inutili attese burocratiche? In Italia purtroppo la coperta è troppo corta e quindi queste opportunità sono troppo rare e troppo spesso vengono offerte a chi ha i migliori agganci. Ci racconti com'è stato il dottorato a Berlino? Fotocopie e lezioni al posto del professore oppure ricerca vera? Di fatto ricerca vera. Allora, tu per un anno lavorerai anche come ricercatore in un istituto di Berlino, ma intanto voli oltreoceano per un master, niente meno che alla prestigiosissima Columbia University di New York. Qui va detto, torna in gioco l'Italia. Pagarti il master, infatti, è la Banca d'Italia. Come ce l'hai fatta? Ho semplicemente recentemente mandato la domanda per la borsa di studio. E prima di chiudere il racconto dei 10 anni in Germania, quanto il sistema di formazione tedesco ti ha offerto opportunità di crescita professionale in modo flessibile, senza rigidità e compromessi a cui sottostare? In Italia avresti fatto tutto così rapidamente? Ho sentito molte storie positive anche dall'Italia. Quello che sicuramente offre maggiori opportunità in Austria e in Germania è l'esperienza post-universitaria e lavorativa. In che senso? Nel senso che è più facile trovare lavoro, nel senso che studi avanzati offrono opportunità di lavoro più adeguate e maggiormente retribuite. Ora la sorpresa: dopo 10 anni spesi tra Germania e Stati Uniti, rientri in Italia vincendo un concorso proprio alla Banca d'Italia, una delle nostre istituzioni d'eccellenza. Allora, per occuparti di cosa, ma soprattutto qualche canale di rientro per i nostri migliori talenti, allora esiste? Mi dovevo occupare di vigilanza sul settore bancario. Sì, sicuramente la Banca d'Italia e altre istituzioni offrono un canale di rientro. Ma tu hai l'impressione che questo sia limitato a delle aree isolate, appunto istituzioni d'eccellenza, oppure il sistema Italia in sé riesca a garantire questo? Non credo, sì, penso che siano piuttosto casi isolati. Tra l'altro, quello che dovremmo raggiungere non è solo il rientro degli italiani, ma è rendere l'Italia un paese interessante per gli eccellenti di tutto il mondo. Un polo di attrazione, hai ragione, hai perfettamente ragione. In Italia a Roma resisti solo 2 anni e mezzo, uso il verbo resistere non a caso. Qui infatti c'è un problema, la qualità generale della vita per chi torna. Allora, partiamo dal lavoro, capisci che il settore pubblico non fa per te e che ti vuoi spostare in quello privato. Aggiungo, il settore pubblico italiano o il settore pubblico tout court? Tu lamenti anche una carenza di prospettive in Italia. In generale cercavo maggiore dinamismo che può essere offerto solo da un'azienda privata. Riguardo alla carenza di prospettive, penso che a parità di sforzo e di impegno in Italia sia una persona ripagata meno che non all'estero. E poi c'è la qualità della vita. Da Roma tu sei praticamente fuggito. Perché? Cosa non va nelle nostre grandi città? Il traffico, la totale assenza di programmazione pluriennale, il fatto che manchi urbanistica, il fatto che non ci siano programmi di edilizia popolare o sovvenzionata, che qui sono accessibili anche a persone di redditi medi. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Ed è così che nell'estate 2007 ti trasferisci in Austria, assunto all'istituto bancario Erste Group Bank AG. Per fare cosa? Domanda a bruciapelo. Serve conoscere qualcuno per avere un lavoro a Vienna o sono sufficienti curriculum e selezione? Inizialmente mi occupavo di gestione del rischio e no, assolutamente non conoscevo nessuno. In Italia avevi provato a cercare qualcosa nel settore privato? In Italia avevo provato, ma in Italia c'è una cronica carenza di annunci, in particolare per posizione senior o di middle management. Diciamo, è tutto nascosto. Ci sono le posizioni ma non si sanno? No. Banche grandissime pubblicano sul loro sito al massimo 3 o 4 annunci a volte. Nel giro di 2 anni vieni promosso a un altro settore. Contano di più i risultati oltre le Alpi o l'essere ossequiosi, simpatici, riverenti verso il capo? I risultati contano, occorre ovviamente avere una dose di diplomazia. A giovanitalenti@radio24.it sottolinei con forza il fattore qualità della vita a Vienna. In estrema sintesi, cosa la distingue in positivo dalle nostre grandi città? Il fatto che ci si possa sentire sicuri in qualsiasi quartiere della città. Io capisco che una città di un paese emergente può essere caotica, ma da un lato offre delle opportunità di crescita enormi. La città di un paese sviluppato, di una grande democrazia dell'Europa occidentale, dovrebbe offrire qualità della vita. Qualche tempo fa sul gruppo LinkedIn Italians Abroad hai lanciato un'interessante discussione tra i giovani talenti espatriati su come parlano dell'Italia all'estero. Cosa ti ha colpito di più leggendo le loro risposte? In Italia noi non siamo abituati al patriottismo becero e facciamo molta autocritica. Certo è difficile di fronte a critiche legittime di persone che anche spesso amano l'Italia saper rispondere come mai, per esempio, non riusciamo a risolvere il problema dell'immondizia. Danilo, in una battuta, ma è vero che complice la bassa disoccupazione le imprese austriache fanno a gara a contendersi i migliori neolaureati? Sì, è vero, qui in Austria i migliori neolaureati hanno l'imbarazzo della scelta. E non è assurdo confrontato all'Italia in qualche modo? È assurdo, anche perché la posizione di un neolaureato in Italia è quasi umiliante, spesso ci si sente come con il cappello in mano. Domanda diritto, Danilo, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? L'Italia dall'estero manca la meritocrazia, bisogna tornare ad un paese in cui ciascuno da un lato è responsabile, dall'altro si permette a chi è capace di salire e si deve anche accettare che chi è meno capace deve scendere. Giovani talenti, Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Danilo Mercurio, 36enne senior analyst per l'istituto di credito Erste Sparinvest a Vienna. Danilo ha studiato per un decennio tra Germania e Stati Uniti, dopo aver abbandonato l'università in Italia, nel bel paese, torna per un lavoro alla Banca d'Italia, resta 2 anni e mezzo, poi capisce che il settore pubblico non fa per lui, soprattutto che un paese, il suo paese, non gli offre adeguate garanzie di futuro. Di qui il salto in Austria, dove apprezza soprattutto l'alta qualità della vita, quella stessa qualità della vita che in patria gli sembrava un diritto negato. E ci raggiunge ora in linea Filippo Santilli, 39 anni, Global Liquidity Service alla BNY Mellon a Hong Kong. Buon pomeriggio, Filippo. Ciao Sergio. La tua è una storia davvero straordinaria che tra poco racconteremo. Prima però una domanda: non è incredibile, anche sulla base della tua esperienza personale e della storia di Danilo, che l'Italia sembri specializzata nel respingere i suoi migliori giovani talenti, quelli dalla maggiore apertura internazionale? Assolutamente. Perché? Guarda, molti di noi vorrebbero stare in patria, vicino alla famiglia, vicino agli amici, ma purtroppo le opportunità semplicemente non ci sono. Filippo, tu nasci in Canada, trascorri la tua infanzia in giro per il mondo, tra Canada, Giappone, Filippine. L'università Economia e Commercio la fai però in Italia. Con quale humus culturale ti scontri però qui? Quale pragmatismo manca da noi? All'estero la scuola è improntata molto sulla praticità. In Italia mi sembra che siamo diventati dei grossi teorici, ma poi l'applicazione nel mondo del lavoro manca quel salto. Dopo il servizio militare ti metti alla ricerca di un lavoro. Allora, ancora ricordi le parole di tuo padre: parti, l'Italia non ti può offrire nulla. E vogliamo allora specificare l'enorme differenza tra la migliore offerta di lavoro ricevuta qui e quelle ricevute in Lussemburgo. Guarda, a Roma mi hanno offerto di fare le consulenze oppure l'auditing a 800 euro al mese, lavorando anche il sabato e la domenica e studiando. Vado a Lussemburgo, nel giro di una settimana ho 2 offerte e lo stipendio iniziale, mi ricordo, era attorno ai 3.000 euro, con una tassazione che era la metà di quella dell'Italia. Nel 99 cominci a lavorare in Lussemburgo per Morgan Stanley, 6 anni dopo parti per Londra, passando a Lehman Brothers. Nel 2007 ti trasferisci a Hong Kong. Un anno dopo Lehman Brothers fallisce, come ci ricordiamo bene, e tu resti a piedi senza $1 di sussidio per un anno, ma scommetti sull'Asia e ci azzecchi. Quante offerte di lavoro ricevi nel 2009 e con chi accetti di lavorare? Per un anno tutte le banche erano in hiring freeze, quindi non assumevano, ma era una situazione globale. Ci si poteva anche un attimino deprimere, ma ho scommesso. Il lunedì di un anno esatto dopo ricevetti 2 offerte di lavoro e il mercoledì un'altra offerta. Questa è un po' la dimostrazione che all'estero rischiare può pagare. In Italia, Filippo, ho l'impressione che è un po' diversa la situazione. Sì, adesso Monti parla del lavoro a vita. Io direi che sono pienamente d'accordo, bisogna anche un attimino rinnovarsi ogni tanto, cercare delle nuove opportunità, e si apprende molto con lavori nuovi, quindi si acquisiscono quelle skills necessarie a, diciamo, avere successo in questo ambiente. Magari ci vorrebbe anche un po' più di dinamismo nel nostro mercato del lavoro. Quando parlavamo prima di offerte praticamente inesistenti perché nascoste, no? Che dici, Filippo? Sì, guarda, io in Italia per trovare un lavoro era sempre tramite conoscenze, se qualcuno dei professori aveva idea di chi stesse assumendo. All'estero si va tramite i famosi headhunter oppure semplicemente si manda un'application online. Pazzesco. Ho sempre lavorato per aziende americane perché la meritocrazia è assoluta. Non importa che mio nonno fosse tassinaro, a loro non gliene frega niente. Filippo, con la concretezza anglosassone, spiega al tuo paese, corrotto da clientelismi e corporativismi della peggior specie, perché la meritocrazia è l'arma vincente per evitare il declino. Guarda, io mi sono sempre trovato con dei capi che fossero più giovani di me, perché in Inghilterra ci si laurea a 21 anni e io a 27, e non importava l'età, non importava il background, non importava la nazionalità o la religione, semplicemente se erano capaci e alla fine conseguivano i risultati che la banca voleva ottenere, salivano. Chi invece aveva anche 50 anni, capelli grigi, per il semplice fatto di essere più anziano, se non era capace o era soddisfatto del ruolo che aveva, rimaneva più in basso. Filippo, so che hai un messaggio per i giovani italiani, in estrema sintesi qual è? Imparate le lingue, perché all'estero il 110 lode, diciamo, non è la cosa che conta, ma è la capacità di parlare e di integrarsi in un contesto diverso da quello proprio. Grazie a Filippo Santilli. E domanda di rito per Danilo Mercurio: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando, tra le varie vie d'uscita, a un espatrio? Molte aziende tedesche e austriache considerano anche persone che sappiano bene soltanto l'inglese, e non fosse altro per un practicum offrono delle opportunità molto buone. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi parliamo di emigrazione dal sud, sia verso il nord ma soprattutto verso l'estero, un fenomeno che non conosce tregua. La denuncia è di Pier Camillo Falasca, autore del libro Terroni 2.0. A me è venuta la voglia di provare in qualche modo a scattare una fotografia di un fenomeno secondo me eclatante e anche molto interessante. Se tutta Italia, ormai lo sappiamo, è interessata e attraversata dalla fuga dei talenti, il sud lo è all'ennesima potenza, perché ci sono decine di migliaia di giovani che per studiare o per lavorare, una volta formatici al sud, scelgono il nord, scelgono l'estero, e lo fanno a differenza dei terroni, diciamo prima maniera, quelli che parecchi decenni fa hanno dato vita alla diaspora nel mondo, restando assolutamente meridionali, e questo può aiutare il sud. Tu li definisci rivoluzionari, perché? La maggior parte di questi giovani, io racconto il caso di Nicola che lavora per Google a Dublino, non sono emigrati per necessità, sono andati via per scelta, per affermarsi professionalmente, culturalmente, umanamente, e lo hanno fatto in qualche modo esprimendo la propria personale dichiarazione di indipendenza. Non hanno pietito un lavoro, non hanno voluto accettare la logica del favore, del compromesso, del permesso, ma hanno scelto, voglio dire, rivoluzionariamente di separare il proprio destino individuale di meridionali da quello collettivo. Tu denunci anche l'incapacità del Sud, e io aggiungo dell'Italia, di valorizzare il capitale umano, soprattutto dei giovani. È ignoranza o è qualcosa di voluto? È miopia. Io credo che la fuga, diciamo, del talento sia molto meglio che lo spreco. I giovani del Sud emigrano più al nord o più all'estero? Per adesso più al centro-nord, ma il fenomeno non ha un ordine di grandezza tanto diverso. La tesi di fondo del libro è che si può comunque cambiare il paese, si può cambiare il sud in particolare grazie a loro. Io non ho la pretesa di dare soluzioni né ricette, ma in qualche modo insieme a questi 12 terroni 2.0 che io ho intervistato, con i quali ho compiuto un viaggio, abbiamo trovato un minimo comune denominatore, che in qualche modo il sud e le persone del sud ce la fanno se riescono a trasformare la questione meridionale nella questione dei meridionali. La questione di ognuno di noi, se si punta, come questi giovani hanno imparato a fare nelle loro esperienze professionali all'estero, investendo sulla responsabilità individuale, sul merito, sulla cultura d'azienda, sulla cultura imprenditoriale, sulla cultura del curriculum vitae, diciamo sulla cultura di un popolo che sa scegliere le persone per il lavoro e per tutto attraverso il curriculum e non più attraverso la rete di conoscenze, che può essere molto utile in altri ambiti ma non per valutare il merito. Per maggiori informazioni, Terroni 2.0, cambiare il sud vivendo altrove, di Pier Camillo Falasca, Rubbettino Editore. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti, o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle nostre discussioni settimanali, che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. Inviate le vostre lettere a giovanitalenti@radio24.it, le pubblicheremo sul web. Resta attiva la nuova iniziativa sui nostri canali online. Compiliamo insieme un manifesto di proposte dei giovani talenti italiani per rendere il nostro un paese dove i migliori circolano e non scappano. Aspettiamo le vostre idee. Infine, siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava. Ciao!